Il libro è Connected Television, tratta la televisione connessa a internet in tutti i suoi aspetti, contenuti, pubblici, tecnologie, modelli economici, è un'opera collettiva. Qui leggete il nome di Alberto Marinelli e di Gian Domenico Celata, in effetti ci andrebbe un terzo nome che è quello di Francesco Solo, ma tanto per fargli una cattiveria non ce l'abbiamo messo, e perché è lui insomma che come Coricom Lazio ha utilizzato e ha spronato questo gruppo di ricerca che lavora sulla televisione da anni, che da anni lavora sulla televisione connessa alle nuove tecnologie e alla rete, a proseguire su questo lavoro. Alla fine poi vedremo qual è il passaggio al quale stiamo andando per quanto riguarda la televisione. Io ho qui al tavolo degli amici carissimi e inizio dalla mia destra, Luigi Aiello, preside di Ingegneria Informatica della Sapienza, è anche un pezzo del Digilab, nel senso che i suoi dipartimenti sono parte di Digilab. Io poi ho un rapporto personale, se mi piace, di affetto nei confronti di Gigino. Gina Neri, anche nei suoi confronti, credo di avere un sentimento di amicizia e di stima, è nel senso che è una delle rappresentanti più importanti del gruppo privato, privato italiano nella televisione commerciale. Non c'è Oscar Cicchetti, che è responsabile delle strategie di Telecom, si è rotto un menisco, lui sperava di poter venire con le stampelle, ma il medico alle 2 gli ha detto non ti puoi muovere e quindi non c'è. Stefano Parisi, che ha intrapreso questa nuova avventura economica, cioè di Kili, cioè una piattaforma che distribuisce contenuti via internet, arriverà verso le 6. Marco Bassetti, io ho scritto produttore televisivo, in effetti Marco Bassetti ha un presente radioso e viene dalla Endemol, che è il più grande industria creativa, diciamo così, della televisione in Europa, è una delle più grandi del mondo. Giovanni Ragone, a cui noi dobbiamo non solo l'ospitalità, non solo lo sprone a fare ricerca, ma anche il fatto che possiamo lavorare al Digilab, e il professor Alberto Marinelli, che è, come dire, il leader di questo gruppo di ricerca che lavora su questi temi. Io vedo degli amici carissimi in sala, vorrei dirne alcuni, ma ne dimenticherei sicuramente altri, però ringrazio Bruno Di Cola, il segretario generale della Wilcom, cioè del sindacato che segue le comunicazioni, Simone Anelli di Confindustria, Giorgio Poidomani, mio carissimo amico e editore, Renato Chicchero è quello che fa i numeri del cinema, quando leggete di box office e l'elaborazione di quanti vanno al cinema è lui, Piero Borghini, che è un mio carissimo amico nel campo della ricerca, della politica economica, Augusto Preta, che assieme a noi, ma noi siamo molto più bravi di lui, sia chiaro, no? Lo dico, lavora anche lui su questi temi del digitale, ogni anno fa un report annuale che è un po' una Bibbia per tutti noi che abbiamo bisogno di numeri in questo campo. Mario Rosso, che lavora nel campo digitale, poi i miei occhiali non riesco. Abbiamo qualche rappresentante di Telecom da questo punto di vista, vedo Francesco Armato, Paola Laggia dell'Agcom, chi mi sono dimenticato? Antonio Paolini, naturalmente, di Telecom, che lavora a ridosso di questi nostri problemi e che fa parte nel cerchio allargato ma molto stretto affettivamente di queste cose, e Bruno Zambardino, che di televisione non si occupa, si occupa di cinema, però lavoriamo assieme su molte cose e quindi ci ha fatto il piacere di venire. Mi sarò sicuramente dimenticato qualcosa, ma ci penserà poi Francesco. Alberto? Allora, grazie a te, io aggiungo soltanto, perché mi pare che tu l'abbia dimenticato, Enrico Menduni, che stiamo parlando. Sta arrivando. E oltre che un collega esperto di queste cose e amico, sarà uno dei primi ad essere chiamato e coinvolto. È abbastanza inusuale che gli autori prendano la parola all'inizio, gli autori, i condottieri dell'impresa, chiamiamoli così. Ma abbiamo deciso di farlo in maniera inusuale per lasciare subito dopo la parola a Elko Demimento, a Francesco Soro e a tutti quanti voi, nel senso che la pensiamo come un'occasione per ragionare attorno ai temi di cui, che abbiamo sollevato nel libro, non come una presentazione formale, canonica, in cui gli autori parlano alla fine, quindi accettatela per quello che è nelle nostre intenzioni, cioè un'occasione a noi particolarmente cara e gradita di poter ragionare insieme ancora una volta, perché in altre situazioni ci siamo trovati per convegni o eventi del genere, a riflettere su dove sta andando in qualche modo la televisione. Allora, io dico tre cose molto rapide, sono quasi istruzioni per l'uso, sono elementi che ricordo a me stesso prima che a tutti quanti voi. Il primo, a questo ci tengo in qualche modo molto, è un libro che è stato scritto sotto l'effetto di un braccio di ferro. Gianni tirava per l'urgenza e Alberto tendenzialmente rallentava, non solo perché Alberto fa di professione anche professore universitario e quindi è in mille altre faccende affaccendato, come i colleghi accademici che siedono al tavolo sanno benissimo, ma perché io ho la sensazione che i libri poi vengono fuori, soprattutto quando non si diventano conoscenze già ben consolidate, ma cercano di mettere i paletti in un campo che sta per delinearsi di fronte ai nostri occhi, i libri vengono fuori con il tempo che si dà allo stesso libro, nel senso che questo libro probabilmente un anno fa l'avremmo scritto in una maniera differente, oggi, il libro è chiuso ad aprile, l'avremmo probabilmente già scritto in una maniera differente, ma la grande differenza che poi ci ha convinto a chiudere, a portare al termine, a consegnare all'editore a marzo, se non ricordo male, di questo anno, è che finalmente si poteva cominciare a capire, no, che cosa ci fosse dopo la televisione, intendendo per dopo la televisione una televisione tradizionale lineare, e sapendo e sgombrando il capo dall'equivoco che in genere perseguita, cade addosso a tutti i nuovisti come siamo considerati noi, no? Di parlare in questi casi come se si trattasse di storie di omicidi, di assassini, cioè nessuno sta sostanzialmente sostituendo una cosa con un'altra, nessuno sta buttando gli ortiche sistemi, no, stiamo parlando di un ecosistema invece molto più complesso che si sta componendo finora ai margini molto ristretti, molto piccoli di quello che è stata la televisione tradizionale, la televisione mainstream, come siamo soliti chiamarla a lezione, e quindi provare a cercare di osservare questo ecosistema e mettere i paletti. E alcune cose ora ci sembrano più comprensibili, ci sembrano comprensibili da dire, a ottobre ci sembrano ancora più comprensibili, nel senso che per esempio abbiamo scommesso molto scrivendolo quasi un anno fa, perché poi sapete che i tempi editoriali e tutto il resto, abbiamo scommesso molto su questo oggetto che sollevo, no? Un anno fa probabilmente era una scommessa, adesso sappiamo che è una realtà, no? Chiacchieriamo con le persone, allora, che ci fai con ma io attacco il tablet alla televisione oppure vedo questo, e vale per i bambini di 3 anni come per i signori di 56 come me. Allora vado subito alla conclusione del primo punto. Tutto quello che ho provato a scrivere è ora affidato alle pratiche sociali, cioè cosa le persone fanno con... Salutiamo Enrico Mendoni che è arrivato, presente. Ma questo è cinema. E si arroga anche il diritto di sedersi al tavolo del relatore senza che nessuno l'abbia invitato. No, no, Enrico, siedila. Egli fu. Scherzo. Ti stavamo aspettando, era un agguato, ti stavamo aspettando per farti parlare subito. E insomma, sono affidate alle pratiche sociali tutte queste innovazioni e stiamo a vedere le prossime settimane. Seconda riflessione, è un libro con pochissimi dati, nel senso che ne trovate veramente pochi e sapete da soli insieme a me perché abbiamo fatto questa scelta. La scelta è perché il libro, come diceva un filosofo di qualche secolo fa, è affidato alla critica all'editrice dei topi, finisce negli archivi, e allora se ha un valore d'uso interessante, ha un valore d'uso se prova a modellizzare. Siamo andati giù di modelli, guarda Antonio Paolini che mi siede davanti, che si è divertito a modellizzare, no? Tutte le opzioni che riguardano il web fino all'estremo, oppure noi qualche modo abbiamo provato a ridurre l'impatto delle informazioni che ci vengono dai dati e a cercare di ragionare sui modelli, sulle linee interpretative. E questa è la forza, e allo stesso tempo potrebbe essere la sua potenziale debolezza, nel senso che se abbiamo sbagliato è veramente affidato non alle mazzate del professor Menduni che minaccia dall'angolo, ma a cose ben peggiori. Terza cosa, riprendo un'argomentazione che ha già sentito, ha già portato Gianni, è un libro collettivo e plurale, nel senso che quando abbiamo pensato, Alberto e Gianni fanno parte di un nucleo solido da molti anni che lavora insieme su questi temi e su altri, e poi piano piano per aggregazione una serie di altre persone, alcune nella prima parte interne al nucleo in qualche modo accademico più stretto, no? E cito Emanuele, Giulia, Romana e Marco, con i cognomi Stendardo, Andò, Mazzucchi e l'altra Marinelli, che per puro caso è anche figlia, ma per puro caso è poco più, e poi una serie di soggetti con cui a vario titolo siamo entrati in contatto, quelli del nucleo portante, e che hanno dato, al di là del ruolo di Francesco Solo, su cui ha già detto da Gianni, e non mi soffermo ulteriormente, perché poi prenderà lui in mano la situazione e la condurrà fino agli sviluppi futuri, persone con cui abbiamo avuto occasione di scambiare proficuamente forme di collaborazione, no? Andrea Materia, Antonio Paolini, Annalisa Chiesa, Giampaolo Rossi, Annalisa De Luca, Marcello Derengo, che non mi pare di vedere ma ci ha giurato che ci raggiungerà, e che ci hanno dato uno spaccato che è sì professionale, ma è qualcosa di più, nel senso che molti di loro sono anche persone prestate alla didattica, sono persone che non solo fanno in alcuni casi televisione, ma più piace raccontarla, coinvolgere i ragazzi in aula, cercare di lavorare insieme. E questa era la terza cosa che dovevo dire, e finisco subito, lascio la gestione delle operazioni in moderazione e di tutto quello che vorrà fare a Francesco, e anche la sedia. Buonasera a tutti, e grazie al professor Celato e al professor Mirani Marinelli per l'introduzione, e soprattutto grazie per, loro dicono che io sarei potuto essere curatore del libro assieme a loro. La verità è che se io sono su questo tema è perché effettivamente diversi anni fa, ragionando sugli sviluppi del mercato dell'audiovisivo, mi sono confrontato con loro e abbiamo deciso di aiutare i ragazzi della Regione Lazio nell'unico modo in cui si possono aiutare non avendo denari, ovvero sia fornendo gli strumenti per competere nel mercato del futuro. La scelta fu ai tempi quella di fare un portale di informazione quotidiana sulla televisione del futuro, e è poi proseguita, e siamo qui ospiti del professor Ragone e del Digilab, stringendo un accordo di collaborazione con l'università al fine di cercare di ampliare questo lavoro, anche in vista del fatto che l'anno prossimo scadrà il mio mandato, quindi bisogna pure lasciare tutto quello che si è fatto a qualcuno che possa poi portarlo avanti. E come in ogni incontro che si rispetti, ho immaginato di partire dal padrone di casa, che però nel momento in cui glielo ho detto rientro tra 5 minuti, quindi ecco. No, perché ho immaginato di partire dal professor Ragone? Perché la scelta del Digilab per la presentazione di questo libro non è affatto casuale, nel senso che il Digilab è una sorta di hub di tutte quelle che sono le linee che dentro il libro sono affrontate e seguite. È un centro interdipartimentale, abbiamo visto che anche la professoressa Aiello contribuisce con con alcuni suoi dipartimenti, ed è un centro che appunto spiega ai ragazzi, e partendo dal presupposto della convergenza cross-mediale della digitalizzazione del mondo. Io vorrei partire da questo, anche perché è un panel abbastanza composito, c'è l'industria e c'è l'accademia, quindi cercherò possibilmente di alternarle nel corso di questa presentazione. Quindi partendo dal professor Agone, chiederei come impatta l'evoluzione tecnologica e quindi tutte quelle che saranno le sue implicazioni, sulla trasformazione culturale in questa nuova epoca digitale. Ha fatto la domanda ovviamente a cui è possibile rispondere, però vorrei dire solo due cose, molto, anche perché credo che gli argomenti siano molto interessanti non solo per gli studiosi, gli esperti che sono qui, ma anche per i giovani, e quindi potersi confrontare direttamente, sentire direttamente diciamo, tesi e analisi importanti. Io vorrei rispondere dal versante anche strettamente universitario, anche perché io non sono un esperto di televisione, mi occupo soprattutto di arti, di beni culturali e di ambienti digitali da questo punto di vista. Però vorrei dire questo, e l'ho anche scritto insieme ad alcuni miei collaboratori recentemente in un articolo su Scuola Democratica, in Italia noi sottovalutiamo il fatto che la transizione delle stesse università diciamo negli ambienti digitali sarà ed è di fatto molto più rapida di quanto noi pensiamo. Noi abbiamo un'inadeguatezza palese ormai, no, che certamente a livello teorico si può discutere, si può scrivere, ne possiamo scrivere, ce la possiamo dire, però che diventerà ben presto un problema drammatico nei modelli dell'apprendimento e nei modelli del fare cultura all'interno dell'università. L'università non ha solo la funzione della prima formazione, ha sempre più evidentemente non solo le funzioni, come dire, della partecipazione alla ricerca, all'innovazione, allo sviluppo, all'accudire sistemi di impresa, e vorrei ricordare che qui c'è stato nella nostra regione un evento che potrebbe essere importante per i prossimi anni, cioè diciamo, finalmente dopo molti anni la firma di questo distretto di tecnologie per la cultura della regione Lazio, che adesso è bloccato per delle vicende politiche elettorali, ma probabilmente nella seconda metà del 2013 ci siamo, e vi dovranno convergere delle imprese, le università, il CNR, i miei altri enti, no? Gli enti, le istituzioni, per creare un ambiente fertile per, no? Per la ricerca, per l'innovazione, per il trasferimento tecnologico, per la formazione. E su questo sicuramente Sapienza si presenta bene, perché questo centro che abbiamo fondato è un centro che nasce con la vocazione di far lavorare in rete competenze diverse, del rapporto molto stretto con le imprese e gli esperti del settore. Ecco, però quando dicevo c'è un'inadeguatezza evidente dei modelli di apprendimento, dei modelli del fare cultura, e questa deriva fondamentalmente da una cosa sola, cioè dalla incapacità di comprendere quali sono le caratteristiche di questo ambiente, di questo ecosistema, come scrive più volte, no? Martinelli e altri colleghi di questo libro. L'ecosistema informazione, anche sottoposto a tensioni molto forti, anche a seconda di quelli che via via nel corso dei mesi, sono neanche degli anni, mesi, sono gli attori predominanti, che siano i network tradizionali, televisivi, che siano le grandi company da Google, da Apple, e così via, che siano in realtà il traino delle audience stesse, e la capacità far premio da questo punto di vista, no? Di chi utilizza questi mezzi. Bene, le università sono nel bene e nel male, io spero nel bene, esattamente al centro di questo vortice, e qui c'è l'inadeguatezza dei modelli dell'apprendimento, perché fondamentalmente sono ancora modelli basati su due cose che hanno ormai molto poco senso, cioè l'aula, la lezione, no? Di prendere gli appunti, le cose necessarie, è importante che gli studenti possiedono, siano capaci di fare, ma l'apprendimento fondamentalmente già oggi si svolge in ambienti digitali, e domani mattina potrà fondersi seriamente, diciamo, con anche qui la transizione tra il vecchio e il nuovo, appunto non è necessario che sia un conflitto, una sostituzione, però qui è un problema di ibridazione dei sistemi, e questa e digital nasce anche per questo, quindi si tratta anche di lavorare molto. Noi cerchiamo di costruire anche piattaforme, sistemi, library che valorizzino i patrimoni, ma anche all'interno di questo sistemi diciamo, in cui gli studenti diventino attori e non solo del loro apprendimento e non solo gli studenti ma anche comunità esterna, cioè quindi anche qui la relazione tra chi insegna, perché ha una cattedra universitaria o un posto da professore fantastico effimero e pagato credo quasi nulla, e il resto del mondo non va più bene, cioè la separatezza tra l'università e gli altri mondi non ha più alcuna ragione di essere in questo ambiente, pur nella distinzione di ruoli, nel riconoscimento di qualità e così. E lo stesso vale in generale sui processi culturali, più in generale sul fare cultura. Abbiamo presentato qui vari libri da questo punto di vista, tempi molto recenti. Qui è esattamente un problema di ritardo terribile sulla capacità del nostro paese, anche in questo caso, di portare i nostri patrimoni culturali, le nostre capacità di creare cultura, ma anche di utilizzare le heritage, no? Ciò che noi ci portiamo sulle spalle, diciamo, negli ambienti digitali. Allora, questa è la vera sfida di questi prossimi, non decenni, ma anni, mesi. Quindi da questo punto di vista, questo libro, devo dire che mi ha molto interessato, intanto perché appunto è un argomento di cui non sono esperto, ma che mi ha fatto abbastanza capire qual è più o meno, quali sono i trend fondamentali. Questo quindi è molto utile anche dal punto di vista comunque di gente inesperta, quindi non credo che sia un libro buono soltanto, diciamo, per esperti e addetti del settore, è un libro che può avere una valenza anche, no? Per l'apprendimento su settori più larghi, no? Una buona capacità di divulgazione. Il fatto che ci siano pochi dati, ovviamente chi li conosce sa che non è questo il mio problema, quindi mi volevano bocciare i primi concorsi che ho fatto perché non avevo fatto sufficienti analisi a campione, e ma nel settore di cui mi occupo io non sono così, insomma, se parliamo di Michelangelo o di Pasolini, forse non è detto che l'analisi a campione sia un elemento necessario. Come sociologo e mediologo, diciamo, il grande punto interrogativo che mi viene da questo libro è: va bene, contenuti, audience e pratiche sociali fanno la differenza. Qui c'è stato un riequilibrio, un'inversione di tendenza rispetto, no? Alla situazione tradizionale della comunicazione di massa. Bene, forse è un momento in cui noi cominciamo a avere, grazie anche a questo libro, un pezzo che si aggiunge, una buona teoria dei media, no? Riusciamo a ragionare sui media. Forse in questo momento quello che ci manca un po' di più, lo dico semplicemente, è una teoria della società. Non sappiamo molto bene, no? Realmente come si muovono, no? Questi soggetti che sono le audience, no? Queste scelte sui contenuti, sui modelli, no? Che poi nutrono questo nuovo sistema, quali sono, insomma, le grandi correnti di nuovi processi sociali, di processi di costruzione della relazione sociale, di costruzione del sé, della soggettività che stanno dentro questi grandi movimenti. Ecco, questo ovviamente dobbiamo lavorare, credo, come mediologi, no? Dal versante nostro, dobbiamo integrare le competenze a tutti i livelli, con tutte le altre discipline che interessano di questo. Forse dovremo a un certo punto tornare anche un po' di sociologia per capire bene questi immaginari, questi modelli, no? Ciò che la televisione sostanzialmente da una parte ci offre e dall'altra ci aiuta a produrre in questo nuovo ambiente significa, cioè cosa dà senso, come dire, questo uso. Grazie. Stavo applaudendo l'auditore. Sì, sono d'accordo, e c'è da dire una cosa: che il grande pregio che ha questo libro è che è già superato, nel senso che tutto quello che è stato scritto nel corso dell'anno passato si è praticamente avverato. Penso banalmente alla parte che ho scritto io, in questi giorni c'è stata sul Nord il Festival dei contenuti per locali, scritto un anno fa sembrava un po' avventato, mentre viceversa oggi siamo ad assistere piano piano che ogni parte di questo libro ha avuto, quella sulle audience ancora un po' meno, ma come ben sapete lavorare sulle audience comporta una serie di implicazioni che non sono soltanto scientifiche. Ho la fortuna di avere sia Marco Bassetti che Gina Nieri, e a Marco chiederei, non prima di aver sottolineato che comunque è vero che il professor Ragone ha detto che lui lo vede più dal lato letterario, ma è anche vero che all'interno del Digilab c'è una Web Content Factory e quindi l'attenzione al contenuto è proprio quella che i ragazzi, in metà della platea composta da loro, stanno cercando di canalizzare. Quindi chiederei a Marco di contestualizzare, cioè di portare su terra quello che sono i discorsi che noi ad oggi facciamo sulla teoria. Come si sta muovendo l'industria dell'audiovisivo e questa centralità dei contenuti, quali sono le sue declinazioni pratiche? Perché il libro parte chiaramente dagli Stati Uniti, nel senso che comunque, come tutti i grandi movimenti dell'audiovisivo, ha un forte influsso nordamericano. Io invece ti chiederei di europeizzarlo un po' con la pratica, con quello che sta accadendo, e soprattutto di spiegare poi alla fine ai ragazzi che sono qui quali sono le professionalità che occorrono nel nuovo mercato audiovisivo. Compiti che affida, c'è da aver paura. Sono Marinella e Gianni, perché ho scoperto un sacco di cose vivendo in questo mondo. E rispetto a quello che diceva il professor Ragone, mi è venuto in mente una cosa che volevo sottolineare. Ho avuto la fortuna negli ultimi 4-5 anni di fare il direttore generale, presidente, amministratore delegato di una società che era più, insomma, da un punto di vista dei dati, la più grande al mondo nella produzione di contenuti non scritti, e quindi mi sono, come dire, fatto un'esperienza anche al di fuori dall'Italia per un po' di anni che serve a me. E da qualche mese sono tornato in Italia, quindi mi sto riadattando, no? Al sistema nostro. E c'è una cosa che volevo dire, ne approfitto di questa platea, che allora, premesso che sono in Milano, quindi, e vivo a Roma, e ho fatto tempo fa il posto al sole come produzione, andando a Napoli e cercando di portare appunto la metodologia della fiction a basso costo in un centro di produzione a Napoli, abbiamo fatto vivere Centro Vetrina a suo tempo a Torino in contatto. Però tornando al liceo professore e viaggiando molto, non ci sono paesi dove si dice facciamo un centro, facciamo questa roba a Palermo, a Napoli, a Torino, a Venezia, a Firenze. In America la fanno a Los Angeles, a New York. In Francia la fanno a Parigi, in Inghilterra la fanno a Londra. Quindi questo fatto di delocalizzare è, a mio parere, una merita stronzata, perché è giusto che ci siano dei centri di formazione, come in questo caso Roma, e credo che sia deputata per tutto questo discorso di eventi anche storici, debba avere i migliori centri di formazione che possono consentire quel transfer di conoscenze. È così in tutto il mondo. Se uno vuol fare il regista del cinema, va a Los Angeles, non va a Chicago, non va a Dallas, non va a Edimburgo, va a Los Angeles, va. E siccome lo fanno in quegli altri paesi, questa ambizione nostra di voler cercare di fare un po' tutto ovunque, a mio parere non funziona, soprattutto perché dobbiamo, come dire, calarci in questa realtà locale. E in questo penso che l'idea di riuscire a fare un distretto qua a Roma sia importante. Poi ovviamente Milano in Italia ha la sua parte, perché c'è Medias, perché c'è un centro di produzione RAI, perché c'è una storia e quant'altro, così come a New York, c'è la New York University, ci sono un sacco di cable network, ci saranno anche qua, ma i cable network che hanno sede ad Atlanta o a Chicago non producono lì, hanno la corporate lì e poi fanno tutto a Los Angeles e a New York. Quindi insomma approfitto di questa platea per dire questo, perché la trovo una cosa molto importante e sensata. Tornando alla domanda che mi facevi, effettivamente manca dei dati questo libro, okay? Però è giusto, ho capito il motivo per cui non sono messi, non sono stati messi. Avete perso di attualità. Sono d'accordo, ma insomma arrivo al punto, perché poi bisogna calarci nella realtà locale, nella realtà nostra. Allora, parlando un po' di dati, e dai dati poi a mio parere si va anche a capire dove atterriamo. Oggi nel nostro mondo, diciamo così, di prodotto, tenete conto che, diciamo così, nel mondo della produzione la stragrande maggioranza, sia nel mondo digitale sia nel mondo, diciamo così, dei contenuti per la televisione, è fatta, diciamo, con le società indipendenti, no? Quindi come c'era Endemol, qui ce ne sono tante altre. Oggi la stragrande attenzione nel mondo web, perché anche noi nella mia esperienza ho sempre evitato di fare e di spendere energie dove appunto c'erano opportunità ma non c'erano dei modelli di business chiari che non consentivano un ritorno sull'investimento e non davano, diciamo così, un time consuming rispetto alle risorse che uno ha. Devo dire che il modello che oggi YouTube sta proponendo, che ha proposto negli Stati Uniti e oggi sta proponendo in Europa, in particolare ha proposto, diciamo così, al momento ha proposto in Inghilterra, in Francia e in Germania, e sta cominciando a proporlo anche in Italia. Se io dovessi risponderti dove ci sono maggiori possibilità, sia per un giovane, sia in termini di modelli di business, quindi un'attenzione da parte dell'industria per cercare di sviluppare prodotti e canali, decisamente quello. Ho letto il libro, mi ricordo nel libro voi citavate Bob Sarrett, che è questo signore che, facendo questo canalino, è diventato milionario su YouTube, ma come è diventata milionaria su YouTube la, come si dice, quella che fa il make up, la Lady Gaga, no? Esatto, no, Clio è l'italiano. L'italiano, no, no, parlo, non è ancora milionario, no, non ancora, quindi siamo ancora a livelli molto molto modesti, no? Però YouTube ha creato questo sistema per cui di fatto quando incontrano tanto, tanto cominciare, scelgono i produttori, no? Perché prendono alcuni piuttosto che altri, non so se ce ne sarà qualcuno di Google o di YouTube, magari può dirlo meno di me. Dopodiché sono disposti a fare un meccanismo di revenue sharing quando uno si sente confident di riuscire ad arrivare a raggiungere una certa dimensione col suo canalino, riesce in qualche modo ad avere un modello di business che in qualche modo sta in piedi. In Italia ci sono un paio di società che sono indirizzate, che sono in questa direzione, diciamo così che i numeri sono ancora modesti, ma sono i numeri modesti in generale, sono i numeri modesti su quello. Oggi, insomma, Gina, correggimi se sbaglio, il fatturato che fa la free-to-air è 4,2, il fatturato che fa internet oggi 450 milioni, mi pare di ricordare, in Italia, no? Quindi sempre un rapporto di 1:10, no? Quello è emerso. Quello è emerso. Quello è emerso. Ok, giusto, sì. Sì, poi questo è un altro tema importante che nel libro non è affrontato, però ci dobbiamo arrivare effettivamente, però io non lo voglio toccare perché ho più di sistema, ovviamente, cioè mettere insieme Google e pensare che YouTube diventerà un nuovo distributore in futuro fa paura, no? Perché è il più grande motore di ricerca, e poi se YouTube riesce a canalizzare in qualche modo tutti i nuovi canali, quindi a assorbire audience, poi non so dove pagare le tasse, se le paga in Irlanda, allora sì, o dove, però quello effettivamente è un problema di sistema. Allora, tornando a quello che dicevo prima, sostanzialmente questo, tenendo presente una cosa, io su una cosa sul libro non sono non sono del tutto d'accordo, nel senso che voi dite di fatto che la TV Connected passa da un modello, diciamo, producer control, da un modello user generated. Anche YouTube, nella sua, diciamo così, ultima, cioè nella sua nuova avventura, sta investendo su canali prodotti, non user generator. Quindi sicuramente ci sarà sempre il Bob Saget che ci darete voi, o la toccatrice di Lady Gaga che faranno un sacco di soldi, ma sicuramente ci si metteranno anche industria, e ne cito due, giusto, The Makers, che è forse il più grande che c'è negli Stati Uniti insieme a Macchimimia, e Video Flip Shine, di Smart in Inghilterra, che di fatto sono diventati canali prodotti e che sono quelli che in qualche modo stanno generando e crescendo in modo più esponenziale in termini di audience e di quant'altro. Quindi io non penso che nel mondo web lo user generated sarà quello che la farà da padrone, ahimè, perché la farà da padrone, ahimè, no, bene per noi che siamo industria, la farà da padrone ancora di fatto chi ha la possibilità, la forza di Dopodiché è chiara una cosa in tutto questo, che il modello americano, a mio parere, arriverà anche in Italia. Se guardiamo cosa è successo negli ultimi anni, a parte di fatto, diciamo, la grande differenza che c'è tra Europa e Stati Uniti, che è quella della rete pubblica, in sostanza del servizio pubblico, comunque di fatto quello che è successo là poco per volta è successo qua, con la distanza, no? Insomma, ero negli Stati Uniti la settimana scorsa e chiedevo ai miei amici che lavorano cosa va adesso sui cable, e noi mi sono accorto che siamo indietro di 4-5 5 anni, perché siamo ancora a quella, non abbiamo ancora da comportare il linguaggio dei reali su che loro sono passati la fiction, ma arriveranno anche qua, arriveranno. Per me è molto chiaro il fatto che la televisione generalista, la scrittura, rimarrà esattamente, rimarrà com'è, con dei tipi di contenuti, ovviamente, che sono contenuti, diciamo così, più sicuramente di utilità immediata, i contenuti premium andranno su tutte le piattaforme che voi avete citato, diciamo così, sulla Connecting TV, che poi sarà Pay Per View, saranno delle TV o whatever, sarà lì, e poi ci sarà una parte, un parere di contenuti con una metodologia diversa, sia in termini di costo, di produzione e quant'altro, che invece occuperanno, diciamo, di tutto il mondo web. E su questo, se io fossi un giovane, starei, mi focalizzerei in questo settore, anche perché dicevamo prima con Gina, non è che siamo a una curva per cui abbiamo scoperto che c'è qualcosa che è cambiato, però la crisi economica e il cambiamento di struttura di fruizione dell'audiovisivo fa sì che niente sarà come prima e quindi sarà tutto diverso. In Italia in modo particolare, io vorrei citare solo questo dato, che è l'unico dato che vorrei alla fine dare, noi abbiamo probabilmente un compound fatturato di circa 11 miliardi e mezzo, 12 miliardi, se voi calcolate la marginalità di questo è meno di zero. Quest'anno Sky, siamo insieme Sky, la 7, Mediaset e la Rai, ci sono 300 milioni, diciamo così, probabilmente di perdita. Un sistema così non regge. E un sistema così non regge, o ha difficoltà a reggere, soprattutto per i costi. Il mondo web, di contenuti web, ha come grande caratteristica che ha un approccio sui costi di produzione totalmente diverso da quello che noi siamo stati abituati fino, io per primo ovviamente, fino a qualche anno fa. Quindi se fossi un giovane, lì c'è un futuro, anche perché la struttura della produzione dei costi, dei contenuti dei costi, cambierà totalmente ed è lì che si andranno a trovare quelli che sono in grado di produrre a una certa qualità, a un certo prezzo, dei contenuti in grado di attirare la scuola. Grazie Marco. Non ti nascondo la soddisfazione mentre parlavi, perché è esattamente il senso dell'accordo che abbiamo fatto con il digital, quindi anche sentirsi dire dall'industria che si è intrapresa la direzione giusta è un qualcosa che da un lato gratifica, ma soprattutto è importante per i ragazzi che quindi sono sulla strada giusta. Nel mio schema ideale c'era il passaggio a Menduni, ci torno subito, però è uscito il tema degli OTT, degli over the top player, lo esaurirei adesso, anche perché il tema non è soltanto, noi siamo abituati in Italia a pensare a un duopolio, questa, questo discorso di duopolio va già tanto tempo, e io penso, e lo dico pur nel ruolo istituzionale, anche perché l'ho detto più volte, che non si può continuare con questa asimmetria di regole tra i broadcaster tradizionali e i newcomers sul mercato dei contenuti. E volevo chiedere, oltre al discorso non solo di dove vengono pagate le tasse, ma di quanti investimenti vengono fatti in un paese o di quante persone vengono impiegate in quello stesso paese, anche perché noi corriamo il rischio di lasciare che i rapaci del web, quando sono rapaci, oppure le grandi multinazionali del web, sostanzialmente riescano a far profitti con il lavoro anche autorale di chi ha investito sui contenuti da lungo tempo. Volevo chiedere a Gina Nieri che tipo di, se questa simmetria oggi per voi rappresenti già oggi, sicuramente in ottica futura nemmeno lo credo, sono certo che la simmetria porterà a degli squilibri nel mercato dei contenuti, ma chiedo se già oggi non sarebbe il momento di intervenire e in che termini per fare mercato, perché ad oggi secondo me lì il mercato, se il rebus sixtantibus con quelle regole, il mercato rischia di essere paradossalmente, adesso mi rendo conto che dico una cosa che in Italia sembra non sia, sbilanciato a danno del duopolio, a danno di Rai e Mediaset, ma ragionando in ottica futuribile questo non è così assurdo. Immaginate, prima qualcuno alla platea ha detto YouTube come la più grande Rai del mondo, e onestamente è una immagine figurata che ha una sua, un suo fascino. Volevo chiedere a Gina, per poi vado su Mendoni e ritorno da Gina a parlare dei contenuti, come la simmetria delle regole possa essere, e si debba essere mutata. Io penso che dallo scontornamento del confine che sostanzialmente separava il contenuto televisivo o la televisione dalle telecomunicazioni, e quindi il mondo dell'hardware e quello del software erano profondamente divise anche in termini regolamentari, concettuali, con la capacità della rete di portare video, è successo qualcosa che veramente ha rimosso completamente gli schemi ideali anche con cui tutto il sistema delle regole era comunque concepito in Italia. Quindi a te ti sento ancora parlare di duopolio, a me mi viene morbido, no? Perché noi siamo veramente, rispetto a tutto quello che si sta muovendo nel mondo della comunicazione, di internet, siamo i polli di lenza che si beccano intanto che vanno comunque a essere presi per il collo e ammazzati, no? Perché veramente io spero, mi auguro che ci sia un momento in cui la piantiamo di essere così provinciali da pensare che i nostri campioni nazionali debbano essere umiliati, straregolamentati, limitati, e che invece si pensi a un progetto dove anche i contenuti originali, che poi sono la sostanza per una difesa anche culturale della nostra Europa, siano comunque rimessi al centro. Perché qui il problema, secondo me, quando parliamo di connetti television, comunque di un qualche cosa che gira comunque sempre intorno al contenuto. Allora non sarà più, io penso che non si possa più neanche continuare a parlare di televisione piuttosto che di web, dobbiamo parlare di contenuti televisivi che sono moltiplicati e declinati sulle web. Allora, in un mondo come questo non si può sopportare il fatto che, parliamo di un schermo di una televisione connessa, quando tu c'hai tutte le finestrelle, comuni, la porta attraverso cui poi ti vai a infilare in questi walled garden o qualcosa di simile che comunque è online, tutto quel contenuto lì è privo di regole. Tutto il contenuto che io, televisione giornalista, con un prodotto lineare metto dentro la stessa televisione è regolamentato dall'inizio alla fine, ho le quote, ho i minori, ho la privacy, ho quanto fatturato posso fare. Quindi, però questo era già pesante quando usavamo comunque degli schermi diversi. Oggi che praticamente la televisione connessa è tutto lì, il problema delle regole è normale. Noi abbiamo la cosa dei figli in cui tutti quanti possono andare a fare, altrimenti noi non è che abbiamo, che andiamo sul ring con un braccio legato, andiamo sul ring con un braccio, con due braccia legate. Allora, secondo me è veramente il tempo di pensare che, siccome tutti quanti hanno dimostrato c'è l'esistenza, quello che è web e rete non si può regolamentare, allora pensiamo comunque a una gestione più light delle regole che riguardano tutti gli altri operatori, che fino ad oggi sono stati super regolamentati. Poi, senza entrare nel problema della responsabilità editoriale, perché qui ci sarebbe da parlare dei mesi, ma lasciamo perdere, però noi ci mettiamo la faccia tutti i giorni, quello che diciamo in televisione è comunque attribuibile a una fonte precisa che ha delle responsabilità, può avere la rettifica, può comunque essere tutelato. Lo sapete tutti quanti, quando c'è stato il famoso la bomba messa davanti alla scuola, c'era un signore che stava sotto interrogatorio perché era sospettato di essere il famoso killer e bombarolo. Si è sviluppata su Twitter una roba pazzesca dove è stato dato il nome, l'indirizzo di casa di questo signore. Quando è uscito la polizia l'ha dovuto salvare su Twitter, non è uscita un messaggio che diceva che quel signorino non era colpevole. allora, capito, ho messo i UTL in un mondo terribilmente importante. Altra cosa sulle regole, noi non ci dobbiamo dimenticare che questo mondo nuovo che è arrivato alla fine sta utilizzando e macerando prodotti televisivi di minore, perché in Europa il tanto per cento del prodotto che va, cioè dei soldi che finanziano la produzione originale, vengono dal broadcaster. Quindi allora, tutto quello che è internet, Google e questi signori qui che fanno grandissimi soldi, ma è come se fosse una delocalizzazione dei passi, perché la produzione di prodotti originali non portano niente. Questo non vuol dire essere contro la rete, non vuol dire essere giurassici perché uno blocca il successo di queste diversità e di questo progresso. È semplicemente dire che c'è un fatto nel sistema di finanziamento dell'audiovisivo, che la gratuità dello sfruttamento da parte di tutte queste grosse entità di prodotti che sono comunque appunto finanziati da delle entità che poi non riescono a goderne appieno, perché se un signore vede tutto facendo il cherry picking su YouTube, vede il meglio di Zelig, ma le persone Zelig in televisione non lo vedono più, non si prendono tutto l'ora e 20 per l'ora che dura Zelig. Allora questo è un problema importantissimo, perché veramente stiamo assistendo, secondo me, alla, adesso lo dico per 18 virgolette, alla rapina comunque di contenuti e allo sfruttamento che poi non rialimenta la catena produttiva del prodotto originale. Questa per ora direi che no. Grazie Gina. Mi rendo conto di averti dato un assist, ma io volevo che la sala lo sentisse dalla tua voce, perché una cosa è che lo racconta chi lo vive sulla sua pelle, chi dà lavoro a migliaia di persone, e mi rendo anche conto che nel mio ruolo istituzionale e nel mio animo da giurista, che comunque rimane, facessi un po' più fatica a dirlo così bene. Professor Menduni, per te l'assist è proprio facile. L'ultimo report di Uyala, Worldwide, racconta che oramai il 71% dei video fruiti su tablet è maggiore di 10 minuti. Questo comporta chiaramente un ripensamento tanto dei formati quanto dei linguaggi di quella che un tempo chiamavamo televisione, che adesso abbiamo impareremo ad apprezzare diversamente. Quali sono i nuovi formati e i nuovi linguaggi in questa autostrada, che comunque questa strada che è già delineata? Non fosse una sola strada, mi sembra proprio groviglio di strade. Io intanto vi devo delle scuse per il mio ritardo, vi chiedo perdono, ma la Tiburtina era ricca di autotreni e altri mezzi di trasporto. Io facevo su e giù col motorino, ma cercavo di imboccare le gocce. L'assist è veramente buono. Io devo dire preliminarmente che noi dovremmo anche fare un ragionamento sul fatto che siamo in una crisi economica di natura molto vasta, e la crisi è anche una natura comunicativa. Cominciamo a dire questo, che la gente si spaventa o ha fiducia senza effetti nessun dato effettivo di conoscenza dell'economia reale come funziona, e questo è pericolosamente simile a quanto avvenne nel lontano 1929, dove la crisi fu innanzitutto una crisi di sfiducia del consumatore, di corsa alle banche. Sono dei paragoni che bisognerebbe fare. Perché dico questo? Perché rispetto all'industria dell'audiovisivo visivo è molto importante stabilire in che misura l'industria dell'audiovisivo ha un valore anticiclico oppure è soggetta al ciclo. Perché qui il paragone con la crisi del 29 è molto interessante, perché la crisi del 29 ci ha regalato la legalizzazione del gioco d'azzardo a Las Vegas, anche se non era legalizzata, cioè anche quella non legalizzata che dava fraternamente una mano, e poi ci ha dato il grande cinema classico americano, ci ha dato Frank Capra, e ci hanno dato i valori che hanno permesso al popolo americano di uscire dalla crisi. Io per esempio, a proposito di formati, di linguaggi, la riflessione che chi produce contenuti sul vecchio continente, a mio modesto avviso, dovrebbe fare è: possiamo noi avere un ruolo anticiclico, vuol dire anche un ruolo progressivo nella situazione attuale? Che misura i nostri contenuti sono l'equivalente moderno di Francesca? Questo è un problema che mi vorrei, perché diciamo l'industria che produce i contenuti, se vuole ottenere anche determinati cambiamenti di regole che anch'io definisco anacronistiche, bisogna che contemporaneamente dimostri tangibilmente di essere dalla parte di quella parte dell'Italia che sta cercando di trovare quanto resta dell'ottimismo della crisi. Allora, l'esempio del cinema classico americano è molto importante da questo punto di vista. Quindi la prima cosa da dire riguarda la crisi, che in qualche modo diciamo viene dopo il libro, che è un libro diciamo di una fase Jenkins, devo dirlo? Non è un'offesa, no? Diciamo che c'è stata una fase Bolter and the Cruising, qui rappresentata sempre da Alberto Marinelli, che a suo tempo curò una bellissima introduzione della traduzione italiana in questo libro, quindi la rimediazione, quindi un barter, insomma una discussione, no, aspetta, io ti do il mio contenuto, tu mi dai i progetti della rete, insomma una specie di passaggio negoziato sui media a una fase 2006, escono tra il 2006 e il 2008 tre libri di Jenkins a raffica, dove invece c'è una fortissima enfasi sui user generated content, addirittura sui canali generati dagli utenti e da tutta quell'attività, il fandom, i subvers, che trova variopinte e simpaticissime descrizioni, tutte le noi, videogiochi, le ibridazioni. Io credo che noi stiamo andando in un'altra fase, che è marcata dalla crisi, che è marcata da una riflessione nell'industria dei media simile a quella che ci portò al CinemaScope, e quindi di dare un valore premium al multiplex inserito in un centro commerciale ibridato con altre forme di entertainment, di consumo e di gioco, in cui per esempio il ritorno del 3D è qualcosa che viene in attenta considerazione, è un tentativo che fa l'industria produttrice di contenuti premium di alzare la soglia di accesso e dire: fate pure il vostro makeover television su YouTube, fate vedere come vi togliete i peli fra le sopracciglia a bassa definizione con una macchina del 1997, mentre io faccio in 3D, non solo, mi vado a riprendere tutto quello che ho fatto prima e con tutti i metadati che avevo li porto in 3D. Quindi noi siamo di fronte a, da una parte, una riscossa dell'industria dei contenuti che cerca anche di elevare queste soglie, e dall'altra al fatto che questi, diciamo, subbers, fandom e quant'altri, tutti questi geek che si mettono a smanettare eccetera eccetera, hanno sicuramente un valore economico, sono importanti per il marketing, sono importanti perché danno anche delle idee gratuite agli sceneggiatori, tutto quello che volete, però 10%? Sotto il 10%, sotto il 10%. Adesso l'altra partita, e qui sono importanti i linguaggi informati, è come quest'altra parte, il grosso delle vecchie audience, si distribuisce in un mondo che intanto dovremmo ricordare non è più duopolistico perfino per ragioni di fatturato, perché oggi diciamo il fatturato di Sky è leggermente superiore, ecco, diciamo così, leggermente superiore a quello della Rai e quello di Mediaset. Quindi il duopolio non esiste più nemmeno dal punto di vista del fiscalista, ma soprattutto anche se lo chiamassimo tripolio, come volete voi, non funziona questa cosa, perché in realtà questi players nazionali o diciamo radicati in Italia, come è ormai il caso di Sky, che è in Italia da circa un decennio, solo una piccola parte rispetto a quello che sta succedendo, dove ci sono, diciamo, non c'è solo, ecco, vorrei dire, il fatto dei 10 minuti di Zelig su YouTube che possono condizionare negativamente poi i followers di Zelig. C'è anche il fatto che sulla rete cominciano ad esserci distributori illegali di contenuti che praticano sostanzialmente il video on demand. Ora, questo in Italia si vede ancora poco, però se fossimo negli Stati Uniti, cose come Netflix oppure Hulu, ecco, siamo già di fronte a delle distribuzioni di contenuti che non sono più nell'evoluzione dei cable operators. Cosa sono? Sono un'altra cosa ancora, e quindi sono un prelevare dei contenuti in forma sostanzialmente on demand via rete, e quindi con tutta quella liberazione da i vincoli legislativi e spesso anche ai vincoli fiscali che la rete permette. Quindi tutti insieme, pur con la querelle, quanto del generalismo diventa premium, quanto diventa nicchia, quanto va a finire sulla pay per view, quanto invece rimane a vedere il contenuto per tutti, tutte queste persone che si stanno spartendo questa parte dei pubblici sono soggette a un attacco fortissimo rispetto ai nuovi player che, oltre a Google e YouTube, sono anche dei formattatori specializzati. Oh, qui arriva anche la questione dei tablet. Io sono rimasto sempre affascinato dal fatto che un utente Samsung può usare il suo telefonino come se fosse un telecomando e può usare il tablet come una forma di secondo schermo rispetto alla televisione, sia vedendo un'altra cosa che vedendo dei dettagli o delle altre inquadrature della visione principale. Non solo, poi a un certo punto dire: vabbè, a questo punto esco, devo comprare le sigarette. Lo diceva anche mio padre quando ero ragazzo, però un giorno non è più tornato, evidentemente il tabaccaio era chiuso, ha dovuto cercare per molti anni un tabaccaio aperto. Adesso, diciamo, se mio padre dovesse andare a comprare le sigarette, uscirebbe col suo tablet e quindi la visione verrebbe completamente delocalizzata. Noi dobbiamo affrontare questi fenomeni, chiudo subito, anche in relazione a una crescita della funzione di mobilità e randonica che è impressionante. Girare per i treni o per gli aerei in questo periodo sembra di essere nell'open space della Mondadori negli anni d'oro. Cioè, tu passi questo corridoio, sembra un open space di gente che fa tutti gli occhi, vede il film, chi pesta su, sostanzialmente è una sorta di officina diffusa dove c'è una pluralità di nicchie di intrattenimento, di lavoro, la differenza ormai è piuttosto aleatoria, che fa impressione. Allora, il tablet è molto importante perché mobilizza tutto. Diciamo, per la prima volta noi abbiamo uno schermo portatile che non ha tutti gli impicci del computer, la chiavetta, la tastiera, il tavolino dove metterla. Siamo di fronte a una mobilitazione dei consumi che fa pensare. Finisco, prima però vorrei che non dimenticassimo mai il GPS, perché noi siamo di fronte anche a una geolocalizzazione dei contenuti. Quindi da una parte noi abbiamo una fruizione in mobilità, dall'altra noi abbiamo la possibilità di taggare il cliente, di profilarlo in qualunque posto si trovi. Quindi questo nomadismo del cliente è compensato, quindi tutto insieme ci dà uno scenario in cui questo libro è un utilissimo, diciamo, libro da tenere sul comodino e da accompagnarci come guida, però accompagnarci come guida in terre incognite, perché ancora la soluzione a buona parte di questi quesiti non ce l'ha nessuno. Chi ce l'avrà sarà il vero player del secondo decennio di questo nostro travagliato millennio. Grazie professore. E di Jenkins abbiamo risparmiato anche il Transmedia Storytelling, altrimenti no. Allora, io alla professoressa Aiello chiederei, abbiamo finito parlando del terzo millennio, e chi meglio di lei, professoressa, che già negli anni 70 è andata negli Stati Uniti a affrontare da precursore la materia dell'intelligenza artificiale, ci può addirittura disegnare gli scenari che adesso, senza, non sono un esperto del campo, quindi conseguentemente potrei dire sciocchezze, che però la robotica e l'intelligenza artificiale, quindi queste, noi abbiamo visto che la televisione è diventata sostanzialmente un'app, una funzionalità, un po' quello che è successo alla funzione telefonica per i telefoni, è diventata soltanto una delle N funzionalità che aveva il, che hanno questi smartphone che oggi abbiamo in mano. Da quel punto di vista, che cosa possiamo vedere, a che altro possiamo assistere? E come questo poi ovviamente incide sull'industria, con le facoltà di incidere sull'industria. Allora, io ero venuta qua come quando si legge il titolo di un corso e si dice che bello, vado a seguire la prima lezione. Invece l'amico Celata mi ha fatto lo scherzo di farmi l'esame subito, mi ha fatto sedere qua. Questo qui me la pagherà a casa. Comunque, comunque mi lascio fare sentire. È una questione unica. E tra l'altro l'obiettivo primo di venire qui per imparare l'ho raggiunto, perché ho ascoltato delle cose veramente molto interessanti e ho imparato un sacco di cose. Io il libro di Celata Marinelli non l'ho letto, ho letto l'indice. L'ho messo sul comodino e aspetto la prossima vacanza, perché non ci ho avuto tempo. Quindi era uno dei motivi per cui volevo essere qui e imparare di più. Forse per decidere se lo butto via o lo tengo ancora tra i libri da leggere. No, lo tengo tra i libri da leggere. Il problema è che ho capito dalla presentazione di oggi che viene affrontato è un problema veramente molto importante. E mentre ascoltavo, comunque, mi facevo una domanda, non è che state in qualche maniera guardando molto più avanti di dove il paese è in questo momento? Faccio questa domanda non perché sia un errore farlo, anzi è sacrosanto, però in qualche maniera io non vedo l'Italia così connessa come la state descrivendo, ossia il digital divide mi sembra che nel nostro paese sia ancora molto marcato. E leggendo i dati sulla diffusione di internet in Italia rispetto ad altri paesi, Nord Europa, Svezia, o rispetto alle grandi capitali, insomma, New York, Londra, la Svezia, in questo momento sono al 90% di connessione, noi siamo decisamente molto più bassi, con regioni molto più basse. Quindi, diciamo, forse qualcuno può ancora dormire solo in tranquilli, questo futuro non è che sta già spazzando via il passato o il presente. Dopodiché gli scenari che vengono intravisti secondo me sono tutti quanti molto realistici e è il connubio tra computer, televisione e comunicazione che è esplosivo. Esplosivo ce ne stiamo accorgendo. Io me ne sto accorgendo da utente, oltre che da parte in causa, perché attiva nel settore del Information and Communication Technologies. E da utente, nel mio piccolo, ho Apple TV e quindi sulla televisione sul mio televisore scarico film, vedo le fotografie dei nipoti che vivono in Olanda e altre amenità di questo genere e che mio figlio carica sul suo computer appunto a distanza di qualche migliaio di chilometri. E da questo nel mio essere un utente molto ingenuo, perché non sono un utente sofisticato di questo tipo di tecnologie, un utente al 10% delle potenzialità che mi vengono offerte, mi immagino tutta una serie di scenari, insomma di come questo connubio possa avere effetti sul divertimento, sull'educazione, come ha intravisto il collega Aragone prima, sulla educazione nel senso di formazione, su, sui rapporti sociali, sui rapporti familiari, sui rapporti sociali, e come questo ci deve spingere veramente a fare analisi e a rivedere i vari modus operandi, rivedere i vari business model. L'intervento che ha fatto la quasi omonima regina è molto, molto impressionante. A questo io ci avevo pensato molto poco, dico la verità, non essendo nel mio così, quotidiano più immediato, però la protezione, il diritto d'autore, diciamo, per quanto riguarda i contenuti o il diritto di produzione, diventa una cosa estremamente importante, perché si rischia veramente di lavorare perché altri voi invece hanno dei guadagni. E gli attori in gioco qui sono capaci di trarre i massimi profitti. Cosa vedo nel futuro? Posso rispondere soltanto con un po' di battute, no? Che invece il futuro suonano, il futuro non si può prevedere. Poi userò una citazione di un ricercatore molto, molto famoso e che è a me molto caro, perché ho pensato a lui in tante occasioni l'ho citato. Prima di questo cercherò di vedere un po' quello che intravedo io. Diciamo, in questo quadro che ci siamo detti, lei ha messo la parola robotica, che invece non era ancora entrata. Già questo fenomeno lo possiamo vedere come un fenomeno di robotica, perché non necessariamente uno, pensando alla parola robotica, deve pensare alla ferraglia che si muove, no? Ma pensa a una forma di intelligenza che percepisce dall'esterno, poi fa trae qualche conclusione da quello che c'è, qualche computer che percepisce l'informazione, la elabora, trae delle conclusioni e poi prende delle decisioni e agisce. Quindi robotica in senso molto lato è già quella che viviamo su internet, perché internet è popolata di questi agenti intelligenti con i quali noi ci rapportiamo e facciamo intermediari. Un giorno o l'altro in questo scenario entrerà la robotica nel senso in cui siamo più abituati a pensarla, che è quella con la ferraglia, il robot mobile che si muove in un ambiente e che interagisce con un ambiente virtuale e che comunica con un ambiente virtuale. E a questo punto, diciamo, pensando a uno scenario domestico, sicuramente abbiamo un passo in avanti molto significativo verso la casa intelligente, la casa cooperativa, dove abbiamo forme di monitoraggio, di assistenza e di collaborazione e di supporto in particolare supporto a persone più deboli, no? Che siano anziani o persone cognitivamente più deboli. E dove il supporto mette insieme il supporto che può essere al monitoraggio dello stato di salute, al divertimento, alla facilitazione del divertimento e della socializzazione di queste persone. Quindi uno scenario estremamente interessante dal punto di vista di, in questo momento ancora molto di ricerca, ma poi di fruizione. Di fruizione, perché diciamo la piattaforma robotica può portare quell'assistenza fisica che la televisione, internet da soli non potrebbero fare, insomma. Quindi la parte attuazione diventa molto più efficace. E fuori dall'ambiente domestico possiamo immaginarci 100 altri ambienti dove si può avere una qualche potenzialità in più aggiunta da attuatori di tipo robotico, che sono quelli che mancano al mondo della televisione e di internet, presi da soli. scenari diventano ancora più intriganti e secondo me c'è bisogno di fare sicuramente e presto le riflessioni di tipo indagini di tipo sociologico e indagini anche di tipo etico, normativo, perché saremo sempre più di fronte a una rivoluzione nella comunicazione e nel supporto, nei servizi che si offrono ai cittadini, alle persone, agli individui. E adesso cito la frase del mio amico, Alan Kay, che probabilmente è molto più noto in ambiente informatico che fuori da questo, e è il padre del PC. Nella sua tesi di dottorato nel 65 ha introdotto notebook, è quello che adesso chiamiamo iPad, ci ha voluto una cinquantina d'anni per realizzarlo, e è quello che ha lavorato per molti anni a Xerox PAC prima e poi alla Apple, e è praticamente il padre dei Macintosh e di tutto questo sviluppo tecnologico. Diciamo, quando lui pensava a queste cose negli anni 60 non aveva così presente internet, non vedeva questo effetto comunicazione, vedeva il notebook che disegnava il bambino che ci giocava, ci leggeva, ci faceva cose, stando sotto un albero in campagna, e quindi una visione molto bucolica della tecnologia. Interrogato su che cosa prevedeva, varie volte l'ho sentito in vari interventi dire: la maniera migliore per prevedere il futuro è inventarlo. E credo che sia originale questa sua citazione, però la sua, perché l'ha usata, l'ho sentito usarla tante volte, e secondo me è quella che dobbiamo usare, in particolare per i giovani che stanno qua dentro, e raccogliendo un po' tutto quello che è venuto da questo tavolo. In questo mondo c'è uno spazio enorme per inventare, e è uno spazio enorme per fare business e per contribuire a questo, contribuire allo sviluppo tecnologico e creare i prodotti di cui noi fruiremo. Quindi cerchiamo di inventare questo futuro. Grazie professoressa, non nascondo la fascinazione un po' dettata dall'ignoto, che però è a portata, nel senso che hai la sensazione di poterlo comprendere, eppure sono materie che richiedono studi e ancora studi. E Gina Nieri, un qualcosa che non lo hanno portato le smart TV, lo ha portato la digitalizzazione, è il processo di frammentazione e erosione che si voglia degli ascolti, non ci sono più le grandi generaliste. Questo porta i grandi ascolti, eccezione fatta per singoli eventi incredibili, già i grandi ascolti cui erano abituati, Mediaset e Rai, ai tempi, per il semplice fatto di essere le reti giornaliste, non ci sono più. Oggi il prodotto deve essere più pensato, insomma è una banale questione anche di numeri, di matematica e confronto numerico. Io da questo discorso ne immagino due possibili sviluppi. Uno che riguarda i metodi di misurazione dell'audience, degli ascolti nell'epoca che stiamo vivendo e quella che verrà. Nel senso che noi siamo in un'epoca in cui basta avere c'è un'applicazione che si chiama Shazam, che tu lasci aperta davanti alla radio e ti riconosce automaticamente la canzone che stai ascoltando. Immaginare di non affrettarsi a modificare, sempre per carità, il con l'auditor, però i metodi di rilevazione delle audience oggi è impensabile. In Agicom stanno discutendo ancora delle seconde case, cioè a Brescia la seconda casa pensano la stragrande maggioranza degli italiani, o addirittura ragioniamo su panel in cui non ci sono gli immigrati, che è un qualcosa. Quindi da un lato immaginare quale possa essere lo sviluppo dei metodi di misurazione delle audience, e dall'altro però subito attaccato quali sono le cose che davvero interessano dal punto di vista della profilazione del target. Anche perché a me ha colpito molto che in questi giorni è uscita la notizia che BBC chiude Last Resort, che che era una serie americana che aveva avuto, non era andata male dal punto di vista del numero di ascoltatori, era andata anche abbastanza bene, aveva molto basso il rating sui 18-49, sui 18 anni 49 anni di età, che è poi quello che, ritorniamo alla, al discorso dell'interazione con l'utenza, che interessa dal punto di vista fandom engagement e tutto quello che ne consegue, perché abbiamo visto che comunque gli americani, gli upfronts, gli hanno dato una grandissima importanza. Quindi ti volevo chiedere, scusa la lunghezza della domanda, da un lato e verso dove stiamo andando dal punto di vista della misurazione delle audience, che sono indispensabili ai fini dell'accaparramento della porta pubblicitaria, perché se noi immaginassimo una bellissima startup con delle idee pazzesche oggi qui, immaginare che questa, con un unico canale nel bouquet ormai gigantesco del digitale terrestre, che cosa andiamo a vendere all'investitore pubblicitario? Ipotizzando una startup con delle intelligenze pazzesche, tutti insieme uniti, con dei prodotti pazzeschi, oggi che cosa andiamo a vendere? Cioè, dove devono andare i metodi di misurazione degli ascolti, secondo te? E parallelamente, quanto conta la targettizzazione? Sulla crisi delle televisioni generaliste, io quello che ti posso dire, prima l'ha accennato anche Marco, cioè secondo me andrà come è successo sempre, la televisione non ha ammazzato la radio, la televisione non ha ammazzato il cinema, cioè comunque secondo me il metodo o il modello di business su cui è basata la televisione generalista, io credo che abbia molto spazio ancora, anche perché la televisione di oggi, pure quella generalista, non è più quella di due anni fa, è un'altra cosa. Noi con la discontinuità tecnologica del digitale comunque siamo mutati, no? Perché siamo noi stessi, voglio dire, cioè abbiamo sette reti che sono tematiche, abbiamo cominciato all'inizio con i bambini, poi con Iris e poi via discorrendo, finendo con lo news che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè cosa dico? Poi abbiamo fatto la PTV, poi dopo abbiamo la nostra PTV che va anche Play, che va nell'online, quindi offre un catalogo di 2000 elementi esattamente sulla rete. Questa applicazione è anche sopra ai tablet, cioè, quindi voglio dire, non è più la Mediaset Play. Su un tablet? No, su tanti. Stanno facendo un sacco di accordi e vedrai che prestissimo è trasversale tablet. Comunque non è una colpa nostra, è una colpa dei device che hanno tecnologie all'interno differenti. Quindi, se non hanno le merchant integrato, la televisione non passa. Il nostro tipo di televisione terrestre non c'è più. Comunque questo è un altro problema grandissimo. Quindi direi che comunque si sono veramente diversificati. Le mass audience non sono più quelle del 35% tutte le sere, non importa, la media sette la RAI, comunque più o meno il 30% o il 32% la fanno tutte le sere. Quindi determinati prodotti avranno sempre bisogno di queste mass audience, che saranno più basse, ma che comunque sono le uniche, e rimarranno penso le uniche, che riescono a mettere davanti allo stesso contenuto tutte le persone alla stessa ora. C'è tutto il completamento di Facebook, noi abbiamo almeno 13 di programmi che hanno una pagina Facebook, quindi la gente intanto si guarda, chatta, è veramente difficile secondo me continuare a viaggiare per schemi, televisione generalista, le mass audience. Il discorso delle rilevazioni di ascolto, intanto io sono convinta che la torta pubblicitaria, così come si dice, che sembra una roba che appunto sta prende a morsi, ognuno se ne prende un pezzo, è una delle componenti, ma non è la sola componente. Nel mondo della televisione non lineare molto è a pagamento, quindi insomma comunque c'è tutto questo spicchio di risorse che sarà differente. Secondo me è difficile che ci sia un unico metodo di rilevazione che misura il video, YouTube e la televisione, perché sono quantità, secondo me, e qualità di contenuti completamente differenti. Quanto, cioè, è lo stesso posto un contatto che mi viene alle 21.30 su canale 5 o quello che, cioè non si può parlare in termini o appunto quanti click si fanno sul singolo contenuto. Secondo me ci sarà sicuramente una decisione necessaria e non credo che ci sia la possibilità di fare un unico metodo di rilevazione per cose tanto diverse. La profilazione dei clienti, per cui si fa un salto in un altro problema grandissimo che riguarda la privacy, che riguarda come si comportano ancora una volta questi grandi operatori presenti sul mercato. Perché sapete tutti, io lo prendo per i miei figlioli, ma fanno da mercante, quando uno si apre il suo indirizzo su Facebook, comunque regala sostanzialmente tutto se stesso e tutta la sua massa di informazioni a un signore che dice che le venderà domani, quando avranno le leggi, le stanno vendendo da tempo i profili dei loro follower, i signori di Facebook. C'è un discorso di privacy, c'è un discorso di tante cose. È evidente che nell'aumento esponenziale di contatti nella televisione e in internet, sempre di più ci sarà la possibilità di segmentare per il mercato pubblicitario le differenti audience. Questo è sicuramente un bene che sarà contesissimo dagli investitori pubblicitari. Però secondo me anche lì continueranno ad esserci prodotti che hanno bisogno di un certo tipo di comunicazione e prodotti che no. Sempre di più io credo che si vada verso una organizzazione anche di eventi trasversali alle differenti piattaforme, perché secondo me sempre di più io credo che si aggiungeranno alle mass audience della televisione importanti contatti su quello che si è buttato da non so quanti chilometri con la navicella, alla fine ha fatto un incredibile numero di contatti. Allora la profilazione di quei contatti sono qualche cosa fantastico per un investitore e per un'azienda che vende. Però io non andrei verso un'ipotesi di omologazione delle misurazioni, secondo me sarebbe un grosso sbaglio se pensassimo che è tutto uguale. Peraltro c'è un video, adesso stavo cercando, purtroppo non ho campo, c'è un video a proposito dei veicoli che segnavi alle tue figlie, un video belga sottotitolato in italiano che sta girando su internet da circa un mese, che racconta di questo specie di programma televisivo, finto programma televisivo, in cui prendevano dei ragazzi per strada, preventivamente ovviamente individuati su Facebook, e gli facevano una serie di domande sulla loro vita, e c'era questo sensitivo che sono partiti molto lenti, poi una sorella, non una sorella, a un certo punto uno gli ha detto: tu in banca hai 21.000 euro, e quella fidanzata dice: questo come fa a sapere 21.000 euro? Alla fine del programma tirano giù le cose, gli fanno vedere la sua pagina Facebook, che lei ha dichiarato che sul programma, che sul conto corrente aveva 21.000 euro. Questo per dare la misura dei rischi che si corrono sui social media. Marco mi ha chiesto un secondo la parola. No, legato un po' al tema del libro, volevo accennare due cose relativamente a queste, alla domanda che hai fatto Gina, che mi pare sono due punti. C'è Salangelo Fabrocini, io sono socio di GECA, che è una, diciamo così, un laboratorio di analisi dei dati e ascolto. Il punto non è soltanto andare a capire qual è la frammentazione sui canali più piccoli che hanno difficoltà di andare ad essere periti, ma capire qual è oggi l'interazione che c'è dei contenuti nel mondo dei social, perché oggi, come tu giustamente dicevi, noi abbiamo una visione multi-screen, lo stesso contenuto va su diverse piattaforme. Quanto è in grado di interagire quel contenuto che passa sulla televisione anche su mio figlio che è su Facebook in quel momento e chat su quello, è uno strumento analisi sui quali stanno lavorando, e a mio parere è molto più importante di andare a sistemare un modello, diciamo così, legato al vecchio auditor con la Nielsen su questo. Tieni conto che, tornando al tema che dicevamo prima, per quanto riguarda YouTube sta sbaragliando anche nel mondo, diciamo così, delle concessionarie di pubblicità relativamente al tuo film, perché c'è un sistema che si chiama TrueView. Sistema TrueView, tu come cliente pubblicitario paghi per quello che hai visto, punto. Quindi è evidente che al di là del profilo, che è importante ovviamente, ed è molto più facile segmentarlo, individuarlo, diciamo così, sul web che sulla televisione, diciamo, generalista, quello che è in grado di offrire oggi e che offrirà in futuro sarà anche il direttore. Ti hanno visto 11.540 questo video, punto, tu mi paghi per questo. E questo è uno strumento fortissimo del pubblicitario nei confronti del distributore di contenuti, quindi di queste due cose. Poi c'è un altro punto che volevo affrontare qua sull'autorità pubblicitaria, perché qua c'è un tema fondamentale. L'autorità pubblicitaria italiana non crescerà, anzi diminuirà. Quindi noi dobbiamo fare i conti con questo. Scusate, io faccio un imprenditore manager, quindi torno su questo tema. Dobbiamo fare i conti con questo. Ma perché? Perché, come diceva giustamente il professor Menduni, qua non c'è un frame cap, no? Quindi quando io sono il signore della Procter & Gamble e ho 3 miliardi da dividere tra Italia e Germania, preferisco metterli più in Germania, dove c'è, come dire, uno spirito di consumo diverso che in Italia. Quindi probabilmente l'anno prossimo non so se riusciremo neanche a raggiungere la soglia dei 4 miliardi nel settore della televisione e della free-to-air. Non solo, ma noi purtroppo abbiamo, se noi andiamo a vedere la spesa, a parte il fatto che non c'è mai stato, diciamo così, un aumento della torta pubblicitaria in presenza di un calo del PIL, quindi noi il PIL nostro non cresce, quindi da questo punto di vista togliamocela dalla testa. Se andiamo a vedere la spesa pubblicitaria in Italia relativamente al PIL, che il PIL che produciamo è, diciamo così, abbastanza, come dire, ci può far sperare di più, però purtroppo il nostro PIL è grandemente composto dalla spesa pubblica, a differenza di tutti gli altri paesi, quindi anche da questo punto di vista non cresce. Allora, torno al tema. È fondamentale perché si possono sviluppare tutte queste iniziative, perché, insomma, altra cosa, scusi, per arrivare a questo punto, si parla della broadband, no? Perché poi parliamo di tutto, ma come caspita distribuiamo questi punti? Loro sono più bravissimi a sviluppare le iniziative terrestre, questi bravano su, no? E quindi adesso si sta parlando, quanti soldi metterci, dove metterci, riguardare. Ma siccome quando lo Stato, Telecom, Cassa Depositi e Prestiti fa la broadband, la fanno prima nei posti, nelle città dove probabilmente ci sarà un ritorno economico sull'investimento, ma dovranno andare a farla anche in Calabria, con tutto il rispetto per i calabresi, dove c'è molto meno industria, no? Chi sta sopra la broadband fa i soldi? E chi sta sopra la broadband? Tutti questi di cui abbiamo parlato prima noi. Allora, piuttosto che, cioè, non si può pensare soltanto a creare la connettività, bisogna pensare anche come sistema paese, nel parere, cosa metterci sopra questa connettività e far sì che ci siano degli attori anche locali, europei e forse italiani, perché lo possono fare, perché sennò noi asfaltiamo una bellissima autostrada, ci mettiamo un sacco di soldi e altri fuori si fanno un sacco di soldi e pagano le tasse in Irlanda, e questo sarebbe devastante. Allora, se come sistema paese pensiamo soltanto, abbiamo capito che le infrastrutture materiali forse servono fino a un certo punto, adesso puntiamo sulle infrastrutture digitali, ma dobbiamo anche pensare di cosa ci sta sopra a queste infrastrutture digitali, se no viene tutto fuori. E a questo proposito volevo dire una cosa, che non so se la prenderà giusta, però perché la torta pubblicitaria mi ha molto ispirato in questo periodo, perché c'è scritto sui giornali, c'è questa cosa della SEC, quindi mi ha fatto tutta una serie di vari studi. A mio modesto parere, se si vuole dare uno sviluppo anche a tutto questo mondo, no? Al di fuori bisogna riuscire a far sì che dei soldi che oggi sono allocati, a mio parere non in modo del tutto corretto, siano allocati in modo diverso per poter creare sviluppo. Oggi in Italia noi siamo l'unico servizio pubblico ad avere una grande percentuale, diciamo così, di mercato esposto sulla pubblicità. E abbiamo un'evasione spaventosa. Allora, immaginiamoci, prima non si poteva dire, perché se lo diceva Gina, diceva sì, tu vuoi che declarare facciamo pubblicità perché poi tu i soldi vanno tutti a Medias, no? Quindi perché là sopiega tutto, no? Adesso non è più così, no? Perché adesso, parliamoci chiaro, tra qualche anno probabilmente tra televisione generalista e televisione tematiche saremo 55-45, 50-50, Nielsen dice 60-40, io non ci credo, mi pare che sarà molto di più, no? Quindi abbiamo questa possibilità. Allora mi domando, c'è in Inghilterra, ma fatto, in Inghilterra c'è sempre stata, e anche in parte in Germania, l'ha fatto qualche anno fa la Francia e l'ha fatto anche la Spagna. L'ha fatto. Noi siamo l'unico servizio pubblico dove c'è una quota di pubblicità da far paura e una grande evasione fiscale sul canone. Che se il canone fosse, cioè se noi riuscissimo a tirare su quei soldi del canone e liberare la RAI, perché nessuno vuole togliere le risorse della RAI, quelle risorse pubblicitarie più si prendono, queste risorse vanno per far viaggiare queste cose anche qua. Se no saranno sempre gli altri ad approfittarne e a farne soldi. Ed è forse l'unica soluzione per sviluppare qualcosa di serio qua. Io non sono nessuno che dico questa cosa così da, diciamo così, da imprenditore, però questo tema mi pareva andrebbe posto, perché se no noi parliamo di niente, parliamo di tutto quello che c'è all'estero, non parliamo di niente che riesce a svilupparsi ad essere qua, e anche per i nostri giovani. Tra l'altro in Italia noi siamo in presenza, questo è un po' colpa anche delle incamere nazionali, di una grande quota di lavoro, diciamo, dipendente fisso e di pochissimo lavoro flessibile. La quota di produzione di automobili in Italia è la più bassa che c'è in Europa, perché Rai e Mediaset tendono a produrre internamente tantissimo. Poi adesso, con la storia dei costi, che ovviamente non possono licenziare, la cosa peggiorerà pure, no? Per cui ci sarà ancora meno accesso, diciamo così, al mondo del lavoro, perché loro lo assumono. Quelli che stanno fuori non assumono perché hanno meno lavoro, quindi ahimè ci sarà ancora meno accesso a questi. Quindi io credo che ci si debba pensare a una diversa suddivisione. Scusami, sono, forse non c'entra niente con questo, però alla fine bisogna capire da dove vengono gli sghei, perché sennò non si fa niente di tutto quello che si scrive e si pensa e si ipotizza. Come collegano le bollette elettriche? Non sono un tecnico che può dire questo, però il fatto che io ho prodotto, mi ricordo, mi ha detto mia figlia una volta, tanti anni fa, noi producevamo i pacchi a fare i tuoni, no? E mi ricordo che c'era il problema dell'acqua, no? Allora ho pensato, mia figlia ha detto, ma papà, perché non c'è il problema della pietra? Effettivamente, se uno pensa, penso che i miei pronipoti arriveranno, che i miei pacchi vengono tagliati col carro e l'acqua viene privatizzata, c'è un referendum, dice, ma qua c'è qualcosa che non funziona in questo sistema, no? Io penso che sia così, perché avere un servizio pubblico che veramente fa servizio pubblico e quindi magari intercetta anche quell'esigenza che lei ha detto prima, cioè di dare un segnale diverso al paese perché probabilmente è un problema di fiducia, questo lo può fare, lo si può chiedere a un'azienda che fa servizio pubblico, quindi non ha un problema di ascolti, non ha un problema di competere con gli altri, ha un problema di sistema ed è giusto che sia così un servizio pubblico, cosa che altri paesi si possono porre e risolvere, noi avendo la RAI che vive di canone e tantissimo di pubblicità, molto meno. Anche perché sarebbe un win, perché comunque la RAI avrebbe le risorse e se ne libererebbero gli altri player sul mercato, quindi non c'è rischio sostanzialmente da questo punto di vista. Quindi io mi trovo a disagio nei panni del moderatore ideale che va d'accordo su tutto, e quindi ho promesso a Ginanieri che era libero alle 19, però volevo approfittare della presenza di Antonio Paolini. Questa startup che ha scritto a proposito dei modelli di business della New TV, questa nostra startup, qual è il nostro modello di business? Vengo qua perché deve essere amplificato. Allora, intanto devo dire pomeriggio di grandissime suggestioni. E devo anche premettere che non posso rispondere a titolo aziendale, io lavoro sì effettivamente per Telecom Italia, ma non posso esprimere una posizione come avrebbe potuto fare l'ingegner Cicchetti, che purtroppo oggi non è qui con noi. Io mi sono limitato semplicemente negli ultimi anni a studiare per la mia azienda i vari modelli di business, di qualcosa di nuovo e di diverso. All'inizio però è stato detto che questo libro avrebbe una tesi parlando della rivoluzione di user generated content. Io temo che da un lato il libro non abbia fatto una tesi, ci sono quasi 20 capitoli che dicono cose anche molto diverse, quindi sembra quasi più un dibattito. E poi questo termine, purtroppo, user generated content, ha tutta l'aria di una di queste terrificanti buzzword a cui di volta in volta si danno significati diversi. Io credo che nessuno abbia mai potuto ragionevolmente sostenere che si potessero costruire nuovi modelli di business con i contenuti generati dagli utenti, punto, anche perché nel 95% dei casi sono materiale che non abilita né vuole abilitare alcun modello di business. Quello che succede magari in paesi più avanzati del nostro, sotto questo profilo, come gli Stati Uniti, è che ci sono dei produttori di contenuti indipendenti rispetto alle catene distributive, che sono pochi, sono una piccola porzione, no, dell'universo dei contenuti generati, che da soli hanno creato dei contenuti di valore professionale completamente nuovi, svincolati dalle regole fissate dalle catene distributive, e sono pian piano saliti su piattaforme molto grandi. Pensiamo per esempio ai vari set-top box di Comcast, che negli Stati Uniti è un internet service provider, che però diversamente da quello che succede in Italia si compra un broadcaster, no? Si compra NBC, Vivendi e così via, e quindi riesce a dare grandi possibilità a produzioni originali, cosa di valore anche se sono svincolate dalle catene distributive. E questo in Italia, per una serie di motivi che sono molto da indagare, non succede. Parlando di questa startup, di questa cosa nuova che potrebbe essere i nuovi modi di fare soldi, io credo che siamo di fronte a una situazione completamente diversa rispetto a quello che è accaduto negli anni 70, per intenderci, con le radio libere, dove abbiamo vissuto una stagione di grande libertà espressiva di contenuti rispetto a quella che era la radio fino ad allora, finché alcuni soggetti, a seguito di una certa evoluzione normativa, hanno potuto utilizzare un'infrastruttura estremamente scarsa, cioè l'etere radiofonico. È stato semplicissimo porre fine a questa rivoluzione, è bastato rioccupare quella infrastruttura e costruirci sopra un modello per pochi soggetti. E adesso siamo di fronte invece a una situazione in cui l'infrastruttura non è più sostanzialmente una risorsa scarsa. La vera risorsa scarsa è l'attenzione. Cioè la lotta è per l'attenzione. La cosa, dal punto di vista del produttore di contenuti originali, quindi delle idee, la cosa positiva è che non devono più obbedire necessariamente a un vincolo lineare. La cosa buona, anche per il broadcaster intendo, no? È che ci sono grandissime opportunità di generare nuovo valore, utilizzando il contenuto in modi nuovi, svincolando loro stessi, no, dal limite della linearità. Sky, con il suo servizio on demand, con MySky, eccetera, ha liberato dal vincolo del palinsesto gran parte della sua programmazione. Credo che sia anche in questo modo che è riuscito a offrire una proposta molto valida e molto apprezzata dal pubblico. Ma anche nella televisione pubblica e privata, free, per esempio, in giro per il mondo, una tendenza evidente è quella di utilizzare lo stesso contenuto su più piani. Siccome c'è un limite di palinsesto, per esempio la radio pubblica americana NPR manda in onda 2 minuti di un'intervista, però poi dice sempre alla fine dell'intervista che l'intervista completa è consultabile sul web. Ci sono vari livelli di opportunità, sia per il broadcaster, che indubbiamente porta straordinarie risorse, straordinari contenuti in questa arena, però c'è in quell'arena anche la possibilità per il produttore, perdonatemi, anche un po' ragionando al di fuori dei ragionamenti sul sistema paese, cioè il produttore può comunque in ogni caso raggiungere il suo pubblico utilizzando in parte chiaramente un enabler di piattaforma, come può essere un internet service provider, come può essere anche un operatore di telecomunicazioni, ma anche appoggiandosi al valore generato da nuovi modelli di business funzionanti, dei cosiddetti over the top, che sarebbero questi convitati di pietra di cui abbiamo parlato per 2 ore, ma non abbiamo sentito il loro punto di vista, e questa forse io credo che sia l'unica lacuna di questa presentazione di oggi, no? Io credo che oggi la cosa più importante sia evitare di fare una conferenza in cui c'è la sommatoria delle posizioni aziendali, perché altrimenti non andiamo molto lontano. È importante confrontarsi con quello che è successo, con l'analisi, diciamo, di quello che è successo. Io non ho fatto assolutamente, come ha detto forse troppo generosamente il professor Marinello all'inizio, la modellizzazione. La modellizzazione è una cosa molto seria che si fa sui fogli Excel, su cui si lavora molto più duro di quello che ho fatto io. Io semplicemente ho visto in modo compilativo quello che è successo nel resto del mondo e che per una serie di motivi ancora in Italia non è successo. Nel resto del mondo i soldi in piccola parte si cominciano a fare, si sottrae audience e si fanno soldi in altri modi. Quindi evidentemente è anche su quello che dobbiamo ragionare, non solo su come far funzionare il sistema paese dei media, diciamo così, come se fosse il vincolo principale. Grazie. Grazie Antonio, ho visto, saluto Marcello Antonio Cartini e Marco Stendardo che sono altri tutori del libro che sono qui, vi ringrazio a tutti per l'attenzione e ringrazio ciascuno dei partecipanti. Grazie.